7. Gli italiani avevano la mania della macchina, non come i tedeschi. I tedeschi al più alzavano un obelisco o una statua, un putto, un angelo ad ali spiegate, un monumento equestre in omaggio al committente. Opere grezze di gesso e cartone, pochi giorni di sudore e il resto della fatica andava ai fuochi, miscelare le polveri, provare le micce. Al momento giusto l'obelisco o la statua si aprivano o incendiavano e da dentro partivano i razzi. Gli italiani no. Gli italiani ergevano castelli da fiaba in legno, tela e cartapesta, alti 100 piedi, con pareti scorrevoli o ripiegabili, tripudio di trompe-l'œil e false prospettive. Gli italiani alzavano archi, cupoloni, facciate di cattedrali, i fuochi nascosti dentro gargoyle e altorilievi. La macchina, questo importava. Senza la macchina i fuochi erano nudi. Così aveva detto uno dei mastri artificieri, mischiando gli idiomi come polveri piriche. «Sans de machine, de fire, sont nudes, compris? Nudes! Let de germans, bain de germans, we do different, comme l'argent of the Lord!» Perché Lord Warwick si fosse interstardito con la scuola italiana non era dato sapere. Il signor Abbott, l'esperto cerimoniere del conte, preferiva i tedeschi. Più scarni, ma precisi e affidabili. Eppure in tutta Europa erano i fuochisti italiani a godere della migliore reputazione. Gli italiani costruivano la propria gloria sull'abbellimento di idee nate altrove, aggiungendo un tocco flamboyant e buffonesco. Con loro c'era un architetto, tale Guidalberto Rizzi. Abbott aveva visto i suoi bozzetti, un edificio senza stile riconoscibile, facciata sontuosa, sorretta da portici, si innalzava ed era interrotto due volte da nuovi spazi vuoti, foreste di pilastri e capitelli, e in cima si allungavano torri, cannoni verticali dal cui interno partivano i fuochi. Più in alto ancora, su una piattaforma circolare, giravano unicorni, draghi cinesi e leoni simili a quelli della Repubblica di Venezia. Dalle fauci uscivano fiamme, subito spente dai getti d'acqua delle proboscidi di due elefanti di legno, nascosti dietro gli alberi e poi sospesi in aria da un gioco di funi. Elefanti che a loro volta dovevano esplodere in un tripudio di lampi rossi, bianchi e blu. Lord Warwick non era tipo da badare a spese e aveva consentito a ogni richiesta. Abbott aveva assunto gli artigiani e gli operai e procurato i materiali. Un mese di lavoro, i viali della residenza affollati di carri e maestranze a petto nudo. Impalcature si alzavano, ponteggi si allargavano, secchi viaggiavano su carrucole e ogni tanto cadevano sfiorando teste. Lord Warwick salutava gli incidenti con applausi dal terrazzo. Abbott non sapeva che pensare. Nel carro officina i pirotecnici miscelavano zinco, antimonio e arsenico rosso. Abbott era preoccupato. Anche la scelta dell'accompagnamento gli sembrava azzardata. Musica per i reali fuochi d'artificio, lo ricordavano tutti, il grande tonfo del 49. Anche quella volta s'era trattato di italiani. Un disastro. Esplosioni premature, incendi, morti, feriti, risse e arresti. Il re e il suo seguito se n'erano andati, suggellando il memorabile fiasco. Su scala minore Abbott temeva di assistere a qualcosa di simile. Lo attraversavano orribili presentimenti. Il cielo era color blu di Prussia, l'unico elemento germanico del display. Alla servitù occorsero parecchi minuti per spegnere tutti i lampadari e le candele del salone panoramico. Pian piano la grande vetrata cessò di riflettere le luci, i sorrisi e i colori sgargianti della calca e si fece trasparente. Ciascuno vide svanire il suo doppio e si trovò in compagnia di un blu denso e pesante di fronte alla volta del cielo. Philippe Lacroix, Ronatérionte, non aveva mai visto fuochi d'artificio. Joseph Brandt Tagliandanega non aveva mai visto fuochi d'artificio. Peter Warren Johnson aveva visto i fuochi d'artificio a Filadelfia, ma sospettava che quello spettacolo sarebbe stata un'esperienza ben più ricca. Con argani e pertiche, gli operai rimossero i teli della bizzarra costruzione al centro del parco, circondata da lunghe torce infisse al suolo e grandi lampade appese agli alberi. Peter si guardò intorno in cerca di suo zio e del grande diavolo, ma non riuscì a vederli. Boom! La folla trasalì e i vetri tremarono. Il cielo ancora non si illuminava. A breve distanza una seconda esplosione. Boom! E poi boom! La terza salva era l'ultimo segnale. Un lampo illuminò il cielo senza fare alcun rumore. L'orchestra attaccò l'ouverture. Da una cupola in cima al tempio si levò una muraglia di fuoco che divenne una cascata di fiamme rosse, bianche e blu. La Union Jack. Una sequenza di scoppi spaventosi cancellò la musica accompagnata da scie verdissime che sembravano partire da ogni punto del palazzo, salivano in cielo e davano vita a effimere stelle. Anche Philippe comprese. Appoggiato alla parete di fondo, accanto a Lady Mowbray, vedeva lo spettacolo al di sopra di parrucche e diademi. Il palazzo di legno non era forse la caricatura del palazzo di Lord Warwick? Lo sfarzo inutile, le statue, gli orpelli, i colonnati sospesi. I pirotecnici mettevano la nobiltà inglese di fronte allo spettacolo di se stessa. La jouissance del padrone di casa trovava il proprio culmine nel falò delle vanità imperiali. Un leone sbuffò un getto ardente, più debole del previsto. Si risolse in una pioggia di lapilli che cadde sul prato, radente alla facciata del tempio. Fu così che una colonna del portico prese fuoco. Prima che qualcuno intervenisse, le fiamme si trasmisero a un'altra colonna. Gli elefanti, intanto, restavano nascosti. Da dietro una siepe sbucarono alcuni energumeni a petto nudo, ciascuno con un secchio d'acqua. Nel mentre il fuoco aveva intaccato una terza colonna. Abbott si lanciò di corsa giù per la collinetta. Il fuoco divorava la facciata. Continuavano a partire razzi in un tripudio di astri artificiali. Sorgevano e subito calavano. Tramonti definitivi, rimpiazzati da nuvole, rapide albe. Grappoli di scintille fluttuavano negli occhi degli astanti. Abbott raggiunse la siepe, dietro la quale operavano i tireur. Vide gli italiani e si avventò contro di loro. «Incoscienti! Irresponsabili! Lo sapevo che avreste causato un disastro!» Gli italiani lo guardarono come fosse un posseduto. Uno di essi gli mostrò i palmi delle mani per placarlo o per tenerlo a distanza. «Calm, friend, tranquille, c'est part du spettacle, is the Italian style, maybe forget?» Poi si girò verso gli operai a torso nudo e ordinò «Tire la corda, now!» Un altro pirotecnico, coperto di tatuaggi dal mento alle dita delle mani, indicò alle spalle di Abbott e gli fece il cenno di girarsi. In quel momento l'intera facciata crollò. Abbott rimase a bocca aperta. Peter, Philippe, Joseph e tutti gli altri rimasero a bocca aperta. I musici smisero di suonare. Un prolungato «Oh!» di stupore riempì il salone. Dietro alla facciata, distrutta dal fuoco, era sorta una piramide. In cima alla piramide, un disco di fuoco, replica del sole, mandava intorno una luce bianca. La piramide si alzò, sollevata da tiranti e verricelli. Alla base si accesero decine di razzi. Era come se le fiamme variopinte la spingessero lontano da terra, verso il cielo. Cielo che si accese di stelle e si tinse in un'ultima grande vampata di rosso, bianco e blu. L'applauso fu fragoroso. Tutti si girarono verso Lord Warwick per congratularsi. Il padrone di casa sorrideva sardonico. «E gli elefanti? Dove sono gli elefanti?» pensò Abbott. «Non dovevano esserci gli elefanti?» chiese agli italiani. «Come omaggio agli ospiti indiani?» Gli italiani lo guardarono come fosse un verme spuntato da sotto un sasso. Poi scoppiarono a ridere. «Il son indien d'Amérique! L'elefant stay in India, in Vezel!» Notte. Peter tornava verso l'albergo e si sentiva alto 10 piedi. Il legno e le stoffe della carrozza faticavano a contenerlo. L'eccitazione della folla, la musica, i fuochi d'artificio continuavano a rumoreggiare, suonare, esplodere nella mente. Scorrevano nelle vene insieme al sangue, denso e forte. Il cuore batteva come un tamburo, sul volto era dipinto un sorriso. La carrozza sobbalzava. Peter non provava alcun disagio, come se le membra pervase d'eccitazione non percepissero disagio o stanchezza. Era al centro del pianeta, in mezzo a un gruppo di eroi che Londra aveva salutato con il cappello in mano. Era il Ticcio. I liquori e i rosoli e i vini avevano sapore di nettare, sapori ben diversi dal rum delle colonie. Le donne e le fanciulle, alcune lo avevano guardato o se n'era accorto, erano ninfe. La sala dove si era tenuto il ballo era un Parnaso. Gli uomini lo avevano trattato con il rispetto che si conviene a un giovane guerriero vittorioso. Peter guardò fuori dal finestrino. La notte era buia, in molti punti l'illuminazione pubblica era assente. Sentì la mole dei palazzi gravare sul veicolo. Londra era un'immensa fortezza. I suoi bastioni difendevano tutti i sudditi leali, giungevano ai quattro angoli del mondo, fino alla valle del Mohawk, fino a Canajoharie. Peter pensò che il futuro aveva i colori dell'arcobaleno.